Radio 24 Reportage. A qualcuno piace fredda, di Maurizio Melis. Questo test deve dimostrare che siamo riusciti con questa tecnologia, con questo processo, ad ottenere il riscaldamento dell'acqua, quindi energia termica, che poi può essere trasformata in elettricità, con costi di produzione estremamente bassi. Tutto questo accadeva a Bologna lo scorso 14 gennaio, qui vicino all'Università Alma Mater Studiorum. La voce che avete sentito è quella di Andrea Rossi, inventore dell'ICAT, l'Energy Catalyzer, un apparato delle dimensioni di un tubo lungo mezzo metro e con un diametro di pochi centimetri che, secondo Rossi, produrrebbe calore grazie a una reazione nucleare a bassa energia. Parliamo della fantomatica fusione fredda, quindi di energia pulita e a basso costo. Assistono increduli un gruppo di scienziati, per lo più dell'Università di Bologna, e di giornalisti. Nell'apparecchio entra acqua del rubinetto e dal lato opposto escono acqua bollente e vapore, abbastanza per scaldarci un piccolo appartamento. A presiedere l'esperimento e a condurre tutte le misure c'è Giuseppe Levi, ricercatore del Dipartimento di Fisica Nucleare. Mi voglio sganciare anche la nuova fisica. Io le potrei far vedere che nei libri di testo una roba del genere non la trova. Anzi, fino a ieri poteva trovare diverse persone che dicevano che era impossibile. Impossibile, eppure accade. Alla base ci sarebbe un fenomeno studiato per la prima volta proprio qui all'Università di Bologna dal fisico Sergio Focardi, oggi professore benemerito dell'Ateneo. Parliamo di una fusione nucleare tra nickel e idrogeno, un fenomeno che tuttavia nelle condizioni presenti all'interno dell'apparecchio molti scienziati non ritengono possibile. Ma qui tutti conoscono Focardi, basta prendere l'ascensore per trovarlo nel suo ufficio. Molto spesso le persone ci dicono: ma voi come fate a sapere che è nucleare? Lo sappiamo dalla quantità di energia, perché una reazione elettromagnetica dà una quantità di energia talmente piccola che non può giustificare i nostri risultati. Poi dopo troviamo il rame, troviamo due isotopi del rame, li troviamo in un rapporto isotopico diverso da quello naturale, vuol dire che l'abbiamo prodotto noi. Il 29 marzo altri due scienziati svedesi si apprestano a condurre personalmente un esperimento sull'ICAT. Si tratta di Sven Kullander, fisico e presidente della Commissione per l'Energia dell'Accademia delle Scienze Svedese, e di Anno Essen, professore dell'Università di Uppsala e presidente della Skeptic Society svedese, società che lotta contro le frodi scientifiche. Quello che ritengo importante in questo contesto è che per la prima volta c'è un dispositivo testato e controllato da persone indipendenti. E questo non è mai successo prima in questo contesto. Il fisico Levi ci crede, il fisico Focardi ci crede, e sono dell'idea che la loro credibilità sia fuori di dubbio. A gettare qualche ombra di dubbio c'è il fatto che, a causa di una situazione brevettuale non ancora risolta, Rossi non permette di aprire la macchina per guardarci dentro e soprattutto non rilascia alcun dettaglio sull'ingrediente segreto che solo Rossi conosce, ovvero il catalizzatore che permette alla reazione tra nickel e idrogeno di raggiungere livelli di produzione di energia migliaia di volte superiore a quelli registrati da Focardi nei suoi esperimenti. Ciò nonostante, il 6 aprile, dopo aver testato l'Energy Catalyzer, i due fisici svedesi Essen e Kullander pubblicano un rapporto ufficiale in cui affermano che l'oggetto produce energia di origine nucleare. Ma non è né l'Italia né la Svezia, bensì la Grecia, la prima a credere all'ICatalyzer. L'annuncio dell'accordo tra EFA, società intestata alla moglie di Rossi, e Defcalion, società che raccoglie un certo numero di investitori, non tutti noti, arriva da Net TV, una delle principali emittenti nazionali greche. Nella vicina Italia, il professor Focardi dell'Università di Bologna e l'ingegner Rossi hanno fatto un importante progresso, presentando un sistema catalitico che produce energia mediante fusione fredda tra nickel e idrogeno. Il professore greco dell'Università di Bologna ed ex ambasciatore Christos Stremmenos, che ha partecipato alla ricerca, ha parlato di una rivoluzione nel settore dell'energia pulita. In una conferenza stampa a Bologna, i due scienziati hanno rivelato che sono pronti per avviare la fase commerciale. E da questo punto di vista, la Grecia si trova in una posizione di leadership, dato che la società Defcalion Green Technologies, con base ad Atene, si occuperà di avviare la produzione e la commercializzazione di massa del dispositivo. A fare da pontiere tra Italia e Grecia c'è proprio Christos Stremmenos, scienziato con una lunga esperienza di studio nel campo della fusione fredda e, dato il passato da ambasciatore, molto ben introdotto nel suo paese. Oggi Stremmenos è vicepresidente di Defcalion. Raggiunto al telefono, ha raccontato così la nascita della società greca. Anche dopo la mia uscita dall'università, cioè nel 2003, con Focardi seguivamo la questione, e quindi un bel momento Sergio mi ha detto: guarda che c'è un ingegnere Rossi che ha fatto un salto di qualità, di quantità, mi ha detto. E gli ho chiesto se lui ha verificato quello che Rossi sosteneva, e mi ha detto sì, e mi ha fatto vedere tutti i grafici, tutte le tabelle dei risultati sperimentali. Sono rimasto proprio, lei capisce, entusiasta, certo, di certo. Questa cosa, insomma. Allora, la prima occasione che è venuto dagli Stati Uniti Rossi, abbiamo parlato e gli ho detto: se la cosa procede, a me interesserebbe di continuare anche le mie ricerche in Grecia e creare un'applicazione, diciamo così. Io ho parlato qui in Grecia, ho degli amici a tutti i livelli, e si è creato questa società, Defcalion, naturalmente sotto l'egida del governo greco. Non sono molte le orecchie pronte ad ascoltare e soprattutto a prendere sul serio Rossi, ma da indiscrezioni si apprende che potrebbero esserci trattative in corso in Italia, e in passato vi sarebbero stati contatti con almeno 4 aziende italiane, tra cui Enel, che a suo tempo avrebbe avuto l'opportunità di esaminare da vicino l'ICAT. Nessuna di queste aziende ha però poi deciso di procedere, come lo stesso Rossi conferma. Guardi, in Italia noi sicuramente manterremo la ricerca e sviluppo in collaborazione con l'Università di Bologna. Per quanto riguarda la produzione e l'installazione, almeno per i primi anni, lo sviluppo inizierà in Grecia e negli Stati Uniti d'America. Il brevetto rimane patent pending, con tutti i diritti di un patent pending. Okay. Ma noi con la commercializzazione partiamo indipendentemente, perché non possiamo aspettare, altrimenti rischiamo di non partire mai. Il passaggio più delicato avverrà a metà ottobre in Grecia, dove verrà inaugurato un impianto da 1 megawatt composto da 330 ICAT collegati assieme. Sarà quella la prova del 9 che la tecnologia funziona, e anche il momento in cui a reattore consegnato e funzionante scatterà l'accordo economico fra Rossi e Defcalion. In ballo ci sono 200 milioni coi quali avviare un primo stabilimento per produrre 300.000 ICAT all'anno, destinati soprattutto al mercato greco e balcanico, mentre finora lo sforzo economico sarebbe stato sostenuto dal solo Rossi. Ma un altro passaggio importante potrebbe avvenire prima dell'estate, come ci spiega Christos Stremmenos. Un annuncio a livello delle autorità greche verrà convalidata con naturalmente una commissione ad hoc la validità di quello che Rossi sostiene, che viene prodotta energia maggiore di 1 a 6 e che l'apparato non presenta, diciamo così, radiazioni pericolose per la salute umana. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.